Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Bugün her şey insanlar içindir atasözünü çürütmek için bir kedinin dostluğu tonlarca ilaçtan daha şifalıdır. Sözünün sahibi 3 Haziran 1935 doğumlu Vincenzo Janacci ya da daha çok bilinen adıyla Enzo Janacci İtabella'da olacak. Savaş sonrası İtalyan müziğinin en önemli figürlerinden biri olan hem şarkıcı hem söz yazarı, piyanist, oyuncu ve komedyendir Janacci. Müzik kariyerine aslında liseden sonra konservatuvara gidiyor. Piyano, armoni ve kompozisyon orkestra şefliği bölümünden mezun oluyor. Ve Maestro Centernieri ile birlikte çalışıyor. Bunun yanı sıra da müzikal kariyeri diyelim. 1956 yılında keyboardçusu olarak yer aldığı Rocky Mountains grubuyla başlıyor. Biz şimdi vakit kaybetmeden çok tatlı bir Janacci parçasıyla başlayalım. E la vita, la vita ile Enzo Janacci Açık Radyo'da. Malore, ma va, c'è chi sbaglia a parare il rigore, c'è chi un giorno ha tanto sofferto che allora ha detto io parto, sì ma dove vado se parto, sempre ammesso che parto, ciao a chi sbaglia a fare le strisce. Chi invece avvelena le bissie, c'è chi un giorno ha avuto un sinistro e vuol bene soltanto al ministro, c'è chi sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? Ehi, la vita, e la vita è bella, è bella, e basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara. È finita la festa. E la vita è la vita l'estrana, l'estrana. Basta una sottana, puttana, che ti monti la testa. È finita la festa. Chi un giorno ha fatto furore e non ha più cambiato colore, c'è chi guarda da una finestra, dice sempre la stessa minestra, e c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? Ciao a chi guarda soltanto la radio e poi sbaglia ad andare allo stadio, c'è chi mangia sempre meno minestra, uno l'ha buttato giù da una finestra, e c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita è bella, è bella, basta avere para la testa, sembra un giorno di festa, la vita, è la vita l'estrana, l'estrana, basta una sottana puttana che ti monti la testa,

Günther Sünd, A, Sin, B, Sin, A, Hüb, B, Sin, B, Berlin, A, B, Sin, B, Sin, B, A, B, Sin, A, B, Sin, B, A, B, Sin, B, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, Ah beh, sì beh, ah beh, sì beh, ah beh, vale per tanti. Ha visto un re, ah, ha visto un re, ha visto un re, ha visto un re. Travi scuse, seduto sul cavallo, piangeva tante lacrime ma tante che bagnava anche il cavallo. Povero re. È l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, oi che balos, di 32 che lui ce n'ha. Povero re, povero re, e poi anche il cavallo. Vai, vai. Ho visto un beh. Se la vi scusè? Ha visto un vescovo. Ah, beh, sì, beh, oh, beh, sì. Un vescovo, anche lui, lui, sì, lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche alla mano. La mano di chi? La mano del sacrestano. Oh, beh, sì, beh, povero vescovo, povero vescovo, povero vescovo. E poi anche il sacrista. Oh, beh, sì, beh, oh, beh, di baba, di pop, sì, la la la, ti ti pom, di ti pom, di ti pom, di ti pom, di ti pom, di ti pom, di ti pom, di ti pom, di ti pom, di ti pom, di ti pom. Ho visto un sciur. Sai, scusa, eh? Un sciur, un ricco. Beh, sì, beh, sì, beh, beh, sì, beh, beh, beh, anche lui. Lui? Lui, lui piangeva, gli colavano le lacrime dentro un bicchiere pieno di vino. Oh. Andava e tutto lo innacquava, porre il tappin. E povero anche il vin. Sì, beh, oh, beh, oh, sì, beh, beh, parara, il re, l'imperatore, l'ha mezzo rovinato. Sa fai cos'è? L'ha confiscato, ah, un caseggiato, ah, di 32 che lui ce n'ha. Povero pin, e povero anche il pin. Sì, sì, beh, sì, ah, beh, oh, beh, sì, oh, è sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piacere fa male. O visto un re düetini Dario Fo ve Enzo Iannacci'den dinledik. Şimdi Iannacci ile birlikte çok kez ortak projelerde yer alan, birlikte çok çalışan ve maalesef geçtiğimiz haftalarda 24 Nisan 2021'de hayata gözlerini yuman 1939 doğumlu, bence efsane şarkıcı Milva ve Enzo Iannacci'nin bir ortak çalışması olan Il Diritto 1980'den bir kayıtla şimdi radyonuzda. Ma. Esta. Festa. Nella casa popolare al tre. Festa. Paste. Paste. E vino in fresco come la sapare. Festa e paste. Gira. Gira, gira, il giradischi e va. Festa, paste e gira. Solo appoggiato in fondo al muro sta. Ma. Zitto sta. Il rito non sapeva ballare, non sapeva parlare, guardava il dritto. Non sapeva ballare, non sapeva parlare, fingeva, diceva. Petardi di carattone là. Pam. Zampi. Paste. E la casa sembra un varietà. Ma che festa è? Suda. Ma la fronte non si asciuga mai. Suda, paste e lampi. Gira. Gira, gira, il giradischi e va. Ma dove va? A parlare, lui si mise a ballare da solo. Il dritto seguitava a girare, continuava a gridare per tono. Gridava di volere l'amore, a finì contro il muro della vita. Lampi e suda e gira. Ma chi è che suda? Che festa è? Piacerebbe sapere chi è che suda e gira, eh? Parla e balla e gira e suda. Lampi e paste e balla e va. Il dritto. 1980'dan bir Milva Yanacci düeti olan Il Dritto'yu dinledik. Şimdi 2006'dan bir Yanacci parçası olan Il Ladro di Ombrelli, Şemsiye Hırsızı radyonuzda. Hey, bye. tanti capelli, festa per chi ruba gli ombrelli, vita per chi ci ha mai vissuto, pace per chi ci ha mai creduto. E vai, e vai, e vai. Compra i capelli, piange, non ha neanche un ombrello, basta per chi troppo ha voluto, forse da che non c'è di nato. Ladro di Ombrelli radyonuzdaydı. Şimdi Enzo Iannacci'nin 14. albümüne de ismini veren 1987 yılından bir parça dinleyeceğiz. Bu parçada Iannacci, Parla Conte'nin 1981'deki Parigi albümüne gönderme yapıyor. Aa diyor, bak bahsetmişsin o şarkında Fransa'nın yağmurları ne kadar güzelmiş diye. Biz bu parçayı 21 Ocak'taki Itabella'da dinlemiştik. Şimdi o parçaya cevap veren bu parçayı dinliyoruz. Parlare con i limoni Enzo Iannacci'den geliyor. Io e te che guardi le mie rughe, io e te che mangi le mie acciughe, e sei sempre lì a parlare dell'età, ma è proprio necessario poi, roba che mi domando, e poi, ma è proprio necessario poi variare uno, vario come me. Che bella quella canzone che parla della pioggia e della Francia e non fa confusione in mezzo a tutta sta ignoranza. È facile anche dire, è proprio necessario poi, roba che mi domando, e poi tutto da dimostrare, poi che è vero, sì che è vero che verrà il giorno che spariranno tutti i rompicoglioni. Sì, io sarò pronto lì a parlare e con i limoni. Uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si arrende, uno che piscia da sotto in su, uno che canta solo I love you. Quanta fatica per farsi accettare con le canzoni, una vita intera per rincorrere due o tre illusioni. Uno che scappa, uno che grida, uno che guida ma non si fida, uno che scrive no con l'accento, poi fa l'amore per il momento. No. Sì, sì, lo so, lo so. C'è la crema per le rughe. Sì, sì, lo so. C'è anche la crema per le acciughe, allora. E in mezzo a tutta sta ignoranza è facile anche dire, è proprio necessario poi, roba che mi domando e poi, tutto da dimostrare poi, variare uno, vario, vario, vario come me. Che bella quella canzone che parla della Francia e della pioggia e non fa confusione in mezzo a tutto sto casino. È facile anche dire, è proprio necessario poi, roba che mi domando e poi, tutto da dimostrare poi, se è vero sì che è vero, vero, vero, che verrà il giorno che spariranno e tutti I rumori. Da un giorno all'altro sei lì a parlare e con I limoni. Uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si arrende, uno che piscia da sotto in su, uno che canta solo I love you. Quanta fatica per farsi accettare con le canzoni, al mio amico Tenco non gli han fatto vedere neanche I limoni. Uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si arrende, uno che piscia da sotto in su e tutti che cantano I love you. Quanta fatica per farsi accettare con le canzoni, al mio amico Gaber non gli ha mai perdonato di aver fatto canzoni. Uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si arrende, uno che piscia da sotto in su e tutti che cantano I love you. Parlare con I limoni ile Enzo Iannacci radyonuzdaydı. Bugün İtabella biraz daha kısa sürecek çünkü bu hafta Açık Radyo'nun destek haftası. Açıkradyo.com.tr'den Açık Radyo'ya destek olabilirsiniz. Olmalısınız. Hadi olsanıza. Enzo Iannacci'nin doğum gününü kutladık. Ve benim onunla tanıştığım parça olan Bir Garip Giovanni hikayesiyle bitiriyoruz. Bu parçayı daha önce çalmıştım. Şimdi 2006'dan bir başka kaydını dinleyeceğiz. Ben Cansın Sahesen. Sözü az sonra Eraslan Sağlam ve Ömer Madre'ye bırakıyorum. Ama hemen öncesinde telegrafçı Giovanni'nin hikayesini dinlediğimiz Giovanni Telegrafista ile Itabella'yı kapatıyoruz. Hoşça kalın. Telegrafista e nulla più, stazioncina povera, c'erano più alberi uccelli che persone, aveva il cuore urgente anche senza nessuna promozione, battendo, battendo su un tasto solo, piri, piri, piri, ellittico da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni, per accorciare parole, per essere più breve, della necessità, conobbe Alba, un'alba poco alba, neppure mattiniera, anzi mulatta, che un giorno fuggì, unico giorno in cui fu mattutina, per andare a abitare città grande, piena luci, gioielli, storia viva e urgente. Ah, inutilità, alfabeto Morse, in mano a Giovanni telegrafista, cercare, cercare Alba ogni luogo, provvisto telegrafo. Quando invecchia come est, dolorosa urgenza, Giovanni telegrafista è nulla più urgente. Per sue mani passò un mondo, mondo glorioso e urgente, crittografico, rapido, cifrato, passò prezzo caffè, passò matrimonio Edoardo VIII, oggi duca di Windsor, passarono cavallette Cina, passò sensazione di una bomba volante, passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio Alba con altro. Telegrafista, quello dal cuore urgente, non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica, si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba, è urgente. Alba, Alba, è urgente. Alba, è urgente. Alba, è urgente! È urgente! Alba, è urgente! Thank you.